Siamo bellissimi e stamattina ho concluso l'incontro dicendo: non c'è posto migliore nel quale possiamo ritrovarci, vero? La domenica non c'è posto migliore che in famiglia, qui insieme, con i canti, l'adorazione. Non c'è vita migliore che tu possa vivere se non quella con Cristo Gesù. Lui è vivo. Non ce l'abbiamo solo scritto lì perché ci piace dircelo, ma ce l'abbiamo scritto lì perché crediamo, è una nostra convinzione, in quanto io potrei dare il microfono a, credo, il 90% di noi e voi mi potreste dire così all'istante quanto avete sperimentato Gesù, questo Gesù che è vivo. Quindi è la verità nella quale noi viviamo ed è bellissimo esserci. Vero? Siamo d'accordo? Come state? Bene. Avete passato una buona settimana? Andiamo avanti a domande e risposte, che dite? Troppo bello vedere anche Nicola, Nicola è in mezzo a noi. Nicola, vieni, vieni, vienici a dare un saluto. È da tempo che manca in mezzo a noi, è davvero un piacere averlo. Lui è bello, abbronzato, ehi. Però visto che anch'io mi sono abbronzato ieri, mi sento confidente di invitarlo sul palco. È l'altezza che un po' mi frega a me. Un po'. Grazie Chiesa, grazie Mirko, grazie a tutti. Cioè, non ho potuto salutarvi tutti insieme perché ho due braccia, ma in questo momento lo faccio. Vi abbraccio e spero di non mancare più così tanto tempo, perché in 4 mesi... ho visto una persona aumentare in maniera incredibile il suo stomaco. Allora devo stare un po' attento, perché siccome ci sono stato dietro per un po' di tempo, appena l'ho mollato un po', e lui si è lasciato andare, si è rilassato. E questo potrebbe essere anche un'analogia spirituale. Occhio a non mollare, perché quando poi molliamo ricadiamo nella vecchia personalità, nel vecchio io e tutte le nostre vecchie abitudini sbagliate. Ma invece noi abbiamo acquisito e stiamo acquisendo nuove abitudini, le abitudini che il Maestro ci insegna giornalmente, quotidianamente, nella Chiesa quando veniamo. Ed è bello, io voglio ringraziarvi, ringraziare Dio, come sempre, per tutto quello che fa nella mia vita, nella vita della mia famiglia. Erika e Pietro vi salutano, ci siamo divisi perché non separati, divisi, perché sono andati a Londra, sono alla Color Conference e sono lì e vi salutano. Erika mi ha chiesto di abbracciarvi tutti quanti. Torneremo presto, solo per un po' di vacanze, credo i primi di giugno, quindi verremo a trovarvi e staremo sicuramente insieme. Dio sta comunque continuando sempre a benedire le nostre vite, al di là delle circostanze, al di là di quello che i nostri occhi naturali vedono, ma quello che è speciale è vivere per fede. È qualcosa di meraviglioso. L'altro giorno leggevo il passo di Deuteronomio capitolo 8 e mi rendevo conto che noi passiamo spesso quello che ha passato il popolo di Israele. A un certo punto Dio dice: io ti ho umiliato, ti ho fatto mancare da mangiare e da bere affinché tu potessi fidarti di me. Wow! E ho avuto un'energia, una carica incredibile quella mattina, mi sono svegliato, ho detto: ma perché a volte ci scoraggiamo quando passiamo dei momenti difficili? No! È il momento difficile, è il momento più bello nel nostro rapporto con Dio, perché è proprio lì che sperimentiamo il fatto di credere, di appartenere a Lui e che Lui si prenderà cura di te, di me. Meraviglioso, ed è quello che voglio lasciarvi, ed è quello che è il messaggio che sento di dirvi a chiunque stia passando un momento difficile, un momento di deserto nella tua vita. Ricordati che questo è il momento più bello, perché stai sperimentando che cosa significa vivere per fede e presto vedrai i risultati della tua perseveranza, perché Dio è fedele, non è debitore di nessuno. Vi ringrazio, vi benedico, grazie ancora pastore, vi voglio bene tutti quanti, grazie Nicola, che bello. Nicola, non lo poteva dire così pubblicamente, ma è venuto in segreto per una convocazione, è venuto a convocarmi nella sua squadra. Perché ridete? Sono poco credibile. Oh, non sono io la persona con la pancia a scanso di equivoci, cioè togliamo la camicia, così sembra più piatta. Diamo un caloroso benvenuto alla persona che ci sta a fianco e diciamogli: il Signore ti ama, Gesù ti ama. Lo so, è la cosa più scontata che abbiamo sentito, ci diciamo o ci ricordiamo, però è di un profondo valore, perché questa è la realtà e oggi vedremo proprio alla luce della sua parola quanto Gesù ci ama. E cantare, no, quanto ti amiamo, in realtà non è un'espressione del nostro amore che è nato così dall'oggi al domani nei suoi confronti senza ragione. Il nostro amore nei suoi confronti è solo un pallido riflesso di quell'amore indescrivibile, incomprensibile, smisurato che lui ha elargito nei nostri confronti. Noi ci ritroviamo ad amare Gesù perché siamo inondati del suo amore nei nostri confronti. Amen? Gesù ci ama e ci ama in una maniera grandiosa, meravigliosa, e quello che andremo a vivere questa sera, a vedere questa sera, è in linea con la cena del Signore. Avete visto che questa sera celebreremo la cena del Signore, e io mi rendo conto, e questa era una mia riflessione durante la settimana, che a volte celebriamo la cena del Signore come una tradizione, e noi sappiamo molto bene che se siamo parte di questa chiesa è proprio perché non ci piace vivere le cose per tradizione, per routine, perché sempre si sono fatte. Noi vogliamo comprendere il valore, il significato di essere veri cristiani, e in quanto veri cristiani vogliamo vivere la pienezza dell'esperienza di una relazione che è possibile con Cristo Gesù vivo. Quindi in tutto questo vogliamo capire bene come si inquadra la cena del Signore. Perché noi celebriamo la cena del Signore? Perché mangiamo del pane, beviamo del vino? Perché ripetiamo questo noi come chiesa una volta al mese? Alcune chiese lo fanno ogni domenica, altre una volta ogni 6 mesi. La Bibbia non ci spiega e non ci dice con che frequenza celebrare questa cena, però sicuramente ci dice di farlo e noi vogliamo comprendere perché. Quindi la maniera migliore non è che io ve lo spiego con una mia filosofia nata durante le mie meditazioni, anche perché non sono un granché di filosofo, ma vogliamo andare a vedere, a leggere dalla parola di Dio, dai Vangeli, attingere dalla verità della Bibbia e comprendere da essa perché è così importante e quanto valore ha questa nostra celebrazione, quella di stasera. Andiamo a leggere dal Vangelo di Luca, al capitolo 22, dal versetto 7. Qui noi leggiamo che venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà e dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli. Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata, lì apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie, disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi. perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Per comprendere bene il valore della cena del Signore, dobbiamo comprendere bene la Pasqua ebraica. E per chi ha partecipato all'evento che abbiamo avuto a Pasqua qualche settimana fa, avete già potuto comprendere qual è il significato ancora oggi di questa cerimonia, la più importante del popolo di Israele. È una cerimonia che ricorda loro quello che è stato il miracolo più grande e il passaggio più importante della loro storia, ovvero che Dio, dopo secoli di schiavitù ingiustamente, che loro hanno vissuto ingiustamente, li tira fuori dalla tirannia e dal dominio del Faraone e dell'Egitto per portare il suo popolo a libertà nella terra promessa. E quindi il popolo di Israele, con Pesach, che è la Pasqua ebraica, ogni anno, una volta all'anno, celebra questo ricordo. È una cena memoriale dove si ricorda quello che Dio ha fatto per loro, liberandoli attraverso Mosè dal dominio del Faraone per portarli a libertà. Ora, Gesù, essendo un ebreo, anche lui, anno dopo anno, ed è evidente che non fosse la prima volta che celebrasse la Pasqua. E sapete, quello che succedeva durante questa cena è che il capo famiglia spiegava ogni passaggio della Pasqua, perché ognuna delle portate che si prendevano, ogni calice che si beveva, aveva un significato specifico. Ora, non entreremo nel merito della Pasqua ebraica, potete andarla a studiare, è molto affascinante, molto interessante, ma ciò che ci interessa è vedere come Gesù si appropria di questa cerimonia, di questa cena, e quale capofamiglia della sua famiglia dà nuovo significato al pane e al vino, e da quel momento in poi cambia la storia di questa cerimonia e presenta una nuova Pasqua. Questa è la cena del Signore ed è una cena che ci parla chiaramente di qualcosa che il popolo di Israele ha vissuto in virtù di Mosè e della mano potente di Dio che si è scagliata contro il Faraone per liberare questo popolo. Mosè è stato il liberatore. E io questa sera vorrei vedere solo tre aspetti, perché ci potremmo perdere in tantissimi aspetti che riguardano la cena del Signore, ma i tre aspetti hanno come fondamento quello che abbiamo appena letto, cioè che Gesù vuole che noi continuiamo a celebrare la cena del Signore, la nuova Pasqua, in memoria sua. E questo è quello che lui dice ai suoi discepoli, e noi oggi, ubbidendo a questo comandamento, celebriamo la cena del Signore in memoria di Cristo Gesù. Ora, quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non sta dicendo fate questo ricordando semplicemente degli atti accaduti più di 2000 anni fa. Non dice semplicemente ricordate me perché vuole che noi abbiamo una memoria storica di quello che lui ha vissuto, di quello che lui ha fatto, del suo sacrificio e della sua resurrezione. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, sta dicendo qualcosa di molto più profondo. Sta dicendo ogni volta che voi celebrate la cena mia, la cena del Signore, la nuova Pasqua, io vorrei che voi comprendeste quale peso e quale valore e quale significato profondo ha il sacrificio che io ho fatto per voi. La cena pasquale ci parla di liberazione. Per il popolo di Israele ha sempre parlato di liberazione, ma quello che Gesù presenta è una liberazione più grande. Se il popolo di Israele in Esodo 12 riceve istruzioni da Dio che doveva sacrificare un agnello senza difetto, raccoglierne il sangue per poi dipingere letteralmente gli stipiti delle porte con quel sangue, affinché quando il distruttore sarebbe venuto per giudicare il popolo egizio, sarebbe passato oltre tutte quelle case che avevano il sangue sugli stipiti. Ora il nuovo agnello è Gesù. Perché Giovanni Battista, guardandolo e vedendolo a distanza, esclamò: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quello che Gesù è venuto a fare è liberarci da una morte ben peggiore della morte fisica che il popolo egizio ha vissuto. Noi siamo liberi, in virtù di Cristo Gesù, di una morte peggiore di quella fisica, che è letteralmente la morte spirituale. Gesù è morto e poi risorto per darci vita. La sua Pasqua ci parla di una sostituzione. Alle tenebre lui ha portato luce, alla morte ha portato vita, alla cecità ha portato visione, a quello che era la paura e quella che era l'oppressione, quella che era la depressione nelle nostre vite, lui porta gioia, vita piena e speranza per il futuro, fino alla vita eterna. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù è il Mosè migliore. Infatti Mosè non è altro che un'anticipazione, la storia del popolo di Israele. È bello che anche Nicola lo citava senza che noi ci siamo confrontati. La storia del popolo di Israele nel Vecchio Testamento non è altro che un'anticipazione di quanto più glorioso sarebbe accaduto in virtù di Cristo Gesù. Gesù è l'agnello che si immola per noi. Quindi la memoria alla quale lui ci chiama e ci invita è una memoria alla liberazione che otteniamo in lui. Questa sera forse puoi dire: ma Mirko, io sono libero, non ho mai vissuto schiavitù, non sono stato mai prigioniero. Forse qualcuno ha sperimentato la prigione, forse qualcuno è stato rinchiuso da qualche parte, forse se devo pensare all'unica occasione nella quale mi sono sentito un po' imprigionato è quando per errore i miei, e vivevo a casa dei miei ancora, sono partiti per un viaggio e io ho dimenticato le chiavi di casa dentro. E sapevo che c'era una soluzione, no? Perché comunque qualcosa te la inventi sempre, ero giovane, adolescente, sapevo che se fossi riuscito ad arrivare sul tetto di casa, a quel punto sarei potuto entrare dalle scale e poi in un qualche modo entrare dentro casa. E così feci, presi una scala, mi avventurai. Questa scala era un po' traballante, ma ci riuscì. Il problema di questa scala è che nello slancio finale per salire sul tetto cadde. E quindi io mi ritrovai sul tetto e non pensai alla possibilità che quella porta, la porta di ferro, no, la conoscete, che si trova sul tetto delle nostre case, fosse chiusa a chiave. E ora ero incastrato, un po' come la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ora non posso né scendere né salire, né scendere e né salire. E quindi ero lì, sul terrazzo di casa, e non avevo speranza. Per grazia di Dio un angelo mi ha preso, mi ha elevato e mi ha portato giù. No, letteralmente ho rischiato la vita, mi sono lanciato su un albero. Vabbè, sono storie lunghe, ma torniamo al messaggio. Io non so, forse sei qui e dici: io non ho mai sperimentato prigionia, non sono mai stato incarcerato, non sono mai stato schiavo, io vivo in un paese libero. Eppure Gesù dice che chi commette peccato è schiavo del peccato. E noi tutti siamo schiavi del peccato che dimora dentro di noi. Non è un problema esterno a noi. Accendiamo il televisore, guardiamo il telegiornale, a volte diciamo: ecco, il problema è lì, è nelle nazioni, è nella guerra, è nelle problematiche sociali. Ed è senza dubbio vero. Ma quelle guerre, Gesù dice, che nascono dentro di noi, e il problema è molto più profondo. Il problema è mio e tuo perché siamo schiavi di un dominatore che vuole il peggio per noi e ci tiene in una campana di vetro, bloccati in una vita misera dove cerchiamo di colmare un vuoto interiore che non è possibile colmare se non attraverso l'esperienza con il nostro Creatore, mediante Cristo Gesù, che viene per liberarci da questa schiavitù e portarci nella terra promessa. Che tu ci creda o no, questa è la verità. Può sembrare una bella favola, può essere qualcosa che leggiamo con gioia nella Bibbia, ma solo quando poi lo sperimenti veramente nella tua vita, dici questa è vera vita. Per questo vale la pena veramente vivere e morire. Ed è per questo che tutti i discepoli di Gesù, dopo la sua resurrezione, prima si persero, prima lo rinnegarono, prima bestemmiarono contro per non apparire seguaci suoi, ma dopo la resurrezione tutti furono disposti a morire per Gesù. Perché quando tu scopri Gesù, quando tu vivi Gesù, allora lì sei pronto a vivere e a morire per Lui, perché Lui è il bene più grande, perché Lui è il liberatore, perché Lui è la gioia completa, perché Lui è la vita piena. Lui è il liberatore migliore. Questo è il primo degli aspetti. Il secondo è che quando Gesù dice fate questo in memoria di me, vuole che noi ricordiamo il suo amore. Non semplicemente una cronostoria di quello che è accaduto nella passione, ma il suo profondo, sviscerato amore per ciascuno di noi. L'abbiamo letto e lo conosciamo molto bene. Io ho chiesto di portare del vino e del pane qui sul palco perché vorrei farvi capire, farvi vedere letteralmente quello che Gesù ha fatto durante la cena. Lui, abbiamo letto, ha preso del pane. Era del pane azimo, non era col lievito, era un po' diverso perché ripercorreva la tradizione ebraica. Però quello che leggiamo è che è significativo e troviamo poi in tutto il Nuovo Testamento, ogni qualvolta si parla della cena del Signore, è che Gesù spezzò questo pane. Lui fece questo gesto qui. Prese il pane, lo spezzò e poi lo distribuì. Fu lui a spezzare il pane e fu lui a distribuire pezzi di pane a ognuno dei suoi discepoli. E per quanto possa sembrare superficiale o di poco conto, questo è un gesto che ci parla del suo amore profondo per ciascuno di noi, perché noi dobbiamo capire, amici, fratelli e sorelle, che la morte di Gesù non è stato un incidente. Lui non è stato giustiziato ingiustamente perché ha detto o fatte delle cose che erano compromettenti per il popolo e per la storia. È tutto vero, anche questo. Ma lui stesso dice, prima ancora di vivere la morte e prima ancora di essere giustiziato, che è lui a donare la sua vita per i suoi discepoli. E lo leggiamo insieme, è molto bello, sono delle parole molto, molto forti nel momento in cui hai un'esperienza con Gesù. Troviamo queste parole in Giovanni, capitolo 10, dal versetto 16. Ed è Gesù che dice, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Ascoltate ora. Nessuno me la toglie. Gesù sta dicendo nessuno toglie la mia vita, nessuno mi ammazza, nessuno ha autorità sulla mia vita. Se sai chi è Gesù e sei consapevole che Gesù è Dio fattosi uomo e che ha camminato su questa terra, tu puoi dedurre con estrema facilità che Gesù era in piena autorità su qualsiasi cosa. I suoi miracoli ci parlano di questo. Lui ha risuscitato morti, ha ridato la vista ai ciechi, ha fatto ricamminare zoppi, ha dato la possibilità a paralitici di alzarsi dal loro lettuccio. Tutto questo per dimostrare che lui era in autorità su ogni cosa. Lui era in autorità anche sulle leggi fisiche, ha camminato sulle acque, ha dimostrato di essere Dio. Nessuno può fare quello che lui ha fatto. E quindi nessuno aveva l'autorità sulla sua vita, e per questo Gesù ci tiene a specificare ai suoi discepoli, a noi ancora oggi, che nessuno me la toglie, nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprendermela. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. È Gesù che decide di prendere la sua vita e darla a ciascuno di noi. La morte di Gesù non è stato un incidente, è stato un sacrificio. E in questo sacrificio lui ha scelto di soffrire e di essere spezzato. Perché ha spezzato il pane? Perché questo simboleggia la sua carne. E la sua carne, lo sapete bene, è stata dilaniata durante le torture che ha subito. Durante tutta la passione, la sua carne è stata rotta. Lui ha versato abbondantemente buona parte del suo sangue. E questo perché non era un'esecuzione normale, era un sacrificio per la salvezza mia e per la salvezza tua, per qualcosa di profondamente spirituale che è la liberazione dal dominio del peccato nelle nostre vite. Lui è stato dilaniato affinché tu non subisca più la condanna del peccato nella tua vita e possa essere libero, perdonato, guarito e salvato per l'eternità. Se accetti Cristo, questo è quello che succederà per l'eternità. Ti ritroverai davanti al Padre e sarai completamente giustificato di ogni tuo peccato, perché tu riconosci che Gesù ha pagato il prezzo del tuo riscatto. Nel momento in cui non riconosci Gesù, sei condannato e paghi la condanna del peccato e della tua autonomia e indipendenza da Dio, il tuo creatore. Quindi questo è il secondo aspetto, il sacrificio di Gesù, e quindi la cena del Signore non fa altro che portarci alla memoria del suo amore per noi. Infatti in Giovanni 15, versetto 12 dice Gesù: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno, aggiunge, ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Ti piace sentirti amico di Gesù? Questa sera ti puoi sentire amico di Gesù. Gesù ti guarda e dice: tu sei amico mio perché io ho sacrificato la mia vita per te. Io sono amico di Gesù ed è l'amicizia più preziosa della mia vita. È la cosa che ha cambiato per sempre la mia storia e io sono eternamente grato, ogni giorno grato, e celebro la cena del Signore, la nuova Pasqua, con gioia, perché so che Lui mi ama. Quando ci approcciamo a prendere quel pane, quel vino, per quanto sia un momento riverente, un momento importante, non deve essere un momento triste, non deve essere un momento di penitenza, è un momento gioioso. Infatti stasera lo faremo con l'adorazione, la lode, e parteciperemo nella consapevolezza che noi possiamo partecipare al pane, al vino con gioia, perché siamo amati. Noi valiamo il prezzo che Lui è stato disposto a pagare. Tu vali il prezzo che Dio è stato disposto a pagare per te, cioè Gesù Cristo, il suo Figlio. Tu sei prezioso, tu sei preziosa. Forse tutto attorno a te ti fa credere diversamente, ma Dio ti guarda e ti dice: figlio mio, figlia mia, tu sei prezioso ai miei occhi ed è per te che io ho dato il mio figlio, perché ti amo. Ultimo aspetto. Fate questo in memoria di me, dice Gesù. Ultimo aspetto, la memoria alla quale Gesù ci invita è la memoria del suo esempio di vita. Quando noi partecipiamo alla cena del Signore, abbiamo la possibilità di ricordarci non solo quello che è stato il suo sacrificio, morte, resurrezione, ma tutto il suo percorso di vita, tutte le sue scelte. Ed è meraviglioso quando ci confrontiamo con Gesù e il tipo di vita che Lui ha vissuto. Una vita di successo, una vita di conquiste, una vita di influenza, una vita che ha portato bene a tante persone, ha trasformato il mondo intero. E Gesù ci invita a questo percorso di vita. e ci dice: questa sera vieni e segui il mio esempio. Quando noi ci approcciamo alla cena del Signore, possiamo ricordare a noi stessi qual è stato il suo esempio in ogni cosa che ha vissuto. Sapete, la scorsa settimana sono stato invitato ad una conferenza in una chiesa a Napoli e mi hanno chiesto di portare un messaggio sul coraggio. Una bellissima tematica, stupenda. E quindi ho cominciato a studiare dalle scritture il coraggio, che cos'è, che cosa non è. Sono coraggioso, sono fifone. Da dove parte il coraggio? E così mi sono addentrato sulla tematica della paura, perché non esiste coraggio senza paura. E sapete una cosa che ho scoperto, che è stata per me sconvolgente, per quanto io l'abbia letto, non ho mai riflettuto su questo aspetto, ma Gesù ci comprende pienamente e la sua vita è un esempio per noi, perché lui ha vissuto esattamente tutto quello che noi viviamo, anche la paura. Gesù ha avuto paura proprio dopo questa cena. Proprio dopo aver celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, lui si ritrova nel Getsemani e noi lo possiamo leggere nel Vangelo di Marco, il capitolo 14, versetto 33, che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, i suoi amici più intimi, i discepoli più vicini. Se li porta con sé e cominciò ad essere spaventato e angosciato. Gesù ebbe paura. Gesù ha vissuto tutto quello che tu puoi vivere. Lui è stato angosciato e la sua angoscia nei Vangeli ci viene descritta come quel tipo di angoscia che è vicino alla morte. Scientificamente è provato che una persona può arrivare a sudare sangue se la sua angoscia è così profonda da addirittura rompere i capillari. Gesù è stato angosciato. Io non lo so, forse stasera dici: Mirko, tu non puoi capire la tristezza di vita che io sto vivendo. Tu non puoi capire i fallimenti che sto attraversando. Tu non puoi capire quanto sono angosciato. Tu non puoi capire quanta paura ho. E io forse posso risponderti, anzi quasi certamente, è vero, non lo so. Però Gesù lo sa. Perché Gesù ha vissuto un'angoscia maggiore di quella che è la tua più profonda angoscia. E Gesù ha conosciuto la paura che forse stai vivendo nella tua vita. Escluderei forse, perché sapete, nello studio della paura, poi mi sono imbattuto in un articolo di un giornale che diceva che 7 italiani su 10, pensate un po', in questo periodo 7 italiani su 10 ha paura di perdere quello stile di vita e quel benessere che finora ha avuto. È una paura fondata. Ha paura di perdere il proprio lavoro. Ha paura di perdere le proprie certezze. Qual è la tua paura? Forse non vuoi ammettere neanche a te stesso, come io, mentre studiavo, dicevo: no, signore, io non ho paura, non ho nessun tipo di paura. Andrò a Napoli, farò questa conferenza, incoraggerò tante persone che sono dei fifoni. Io non sono un fifone. E poi mi sono confrontato su quelle che sono delle paure che noi tutti viviamo. La paura per la nostra salute, la paura di rimanere soli, la paura di quello che non sappiamo e che non conosciamo del nostro domani. Ora non sono qui per ricordartele, per farti stare male, ma semplicemente per ricordarti che la paura la viviamo e la viviamo tutti. E sapete, la paura ha la forza di deviare il nostro percorso di vita. La paura ha una forza nella nostra vita di determinare le nostre scelte. Noi è per paura che molto spesso facciamo tante, se non la maggior parte, delle scelte della nostra vita. Grazie a Dio Gesù non si è fatto controllare dalla paura. Grazie a Dio Gesù non ha permesso che la paura e l'angoscia che ha vissuto nel Getsemani deviasse il suo percorso di vita, deviasse la sua missione. Grazie a Dio Gesù non si è fermato a dire: sto vivendo paura, non voglio vivere questa cosa, Dio toglimi questo calice, che passi oltre me. Grazie a Dio Gesù si è umiliato e ha detto: non la mia volontà, non la volontà dei miei sentimenti, non la volontà di quello che mi incute terrore sia fatta, ma la tua volontà. Lo sai che tu puoi andare oltre i tuoi sentimenti? Lo sai che puoi andare oltre la paura? Questo è il coraggio. Il coraggio non è l'assenza di paura. ma è la capacità di sopraffare la paura con il coraggio, che è un sottoprodotto della fede. Se hai fede in Dio, la paura svanisce. O meglio, forse può rimanere, ma non avrà forza di determinare il percorso di vita. La paura vuole restringerti in una vita sempre più chiusa, sempre più claustrofobica, sempre più a protezione, perché dobbiamo difenderci da tutto e da tutti, e noi ci chiudiamo per un'autodifesa, guscio, alziamo le difese, i muri, e la nostra vita diventa miserabile, perché non siamo chiamati a vivere questo. Dio ci chiama la libertà, Gesù è la nostra libertà e Gesù è il nostro esempio di vita, e ricordarci di Lui questa sera ci può portare a sopraffare la paura con la fede, vedendo il suo stesso esempio di vita. Fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me, dice Gesù, perché Gesù ci vuole dare una vita piena. E Lui dice, infatti, la parola sua dice in Ebrei al capitolo 4, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E qui aggiunge l'autore degli Ebrei, nella parola di Dio, accostiamoci dunque con piena fiducia. Fratelli, sorelle, con piena fiducia, accostiamoci a Lui con piena fiducia. Questa sera, con piena fiducia, accostati al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Io credo che questo è il momento opportuno per me e per te. Questo è il momento dove noi possiamo ricevere, come diceva anche Gianluca, consolazione per il nostro cuore. Questo è il momento opportuno nel quale possiamo ricevere liberazione per le nostre vite in Cristo Gesù. Questo è il momento opportuno nel quale noi ci liberiamo di qualsiasi paura che opprime la nostra vita. Questo è il momento opportuno nel quale noi ci appropriamo di quell'amore indescrivibile e insormontabile e che Gesù ha per ciascuno di noi. Gesù ti ama. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. E vorrei invitare il gruppo Lode a guidarci in un tempo di adorazione. Quello che faremo è vivere un tempo di adorazione e partecipare insieme alla cena del Signore. Credo che questa sera, e a partire da questa sera, spero che a partire da questa sera, questo pane, questo vino ha un peso maggiore per la tua vita. E che tu con maggiore consapevolezza puoi vivere questo aspetto della vita di Chiesa, appropriandoti di ogni benedizione che c'è nel partecipare alla cena del Signore. Io vorrei che noi pregassimo, quindi vorrei invitare tutti noi a concentrarci su Dio, chiudere i nostri occhi. E Padre, noi veniamo a Te nel nome di Cristo Gesù. Noi non siamo degni se non fosse per quel sangue versato e quel corpo dilaniato che si è sacrificato per noi. Per questo la prima cosa che noi come Chiesa vogliamo dirti, Padre, è grazie. Grazie per Gesù. Grazie per quello che Lui ha fatto. Grazie per la speranza che noi abbiamo in Lui. Grazie Gesù perché i nostri peccati sono perdonati. Grazie Dio per aver mandato il tuo figlio, e grazie per questo sacrificio che così tanto ti è costato e così tanto ci fa comprendere quanto ci ami. E noi vogliamo dirti questa sera che ti amiamo, e con questa attitudine vogliamo celebrare la nuova Pasqua, questa cena, nel ricordare quello che tu hai fatto per noi e nel ricordare te in tutto e per tutto. A te la gloria e l'onore, Gesù. E vuoi tu intervenire in questo momento per liberare i cuori che sono oppressi, per liberare le vite che sono schiave. Ti prego Gesù di operare in questo tempo affinché noi possiamo uscire da questo luogo trasformati mediante la potenza dell'intervento tuo stesso. Benedico questo pane, benedico questo vino nel nome di Cristo Gesù.